Viaggiatori, purtroppo non avete superato il quesito e noi non possiamo essere sicuri delle vostre intenzioni. Possiamo però consegnarvi quest'altra pietra. È del semplice quarzo, ma se saprete usarla nel modo giusto, potrebbe portarvi comunque al vostro obiettivo. Vi ringraziamo per la vostra gentilezza. Ne faremo buon uso.